Radio 24 Reportage. Tira Minans, Milano riparte, di Raffaella Calandra e Rosanna Magnano. Mi odio e mi amo come Milano, come fai te. Mi odio e mi amo come Milano, come fai te, yeah, yeah. Come fai te. Laddove prima c'erano gli orari dell'happy hour, ora c'è una scritta che pende dal bancone: rispettate le distanze. È il vecchio mondo che tarda a morire e quello nuovo, recita un cartello sulla darsena, che tarda a comparire. In questo chiaroscuro Milano inizia a immaginare il suo futuro. Non c'è nulla che possa sostituire un incontro nel nostro settore. La forza del nostro lavoro consiste proprio anche spesso nell'incontro casuale, no? Non tutti sono andati via, alcuni sono rimasti qui, quelli che dicono verità anziché dire sempre sì. Prova a dire no, io non me la prenderò. La scorsa notte preso. All'improvviso l'agenda di Ivana Germani, PR manager di Milano, si è svuotata di aperitivi, cene, eventi, che qui non sono solo la celebrazione di un rito, ma occasioni per incontri che diventano idee e progetti. È questa rete che da sempre rende Milano la città più accogliente e internazionale d'Italia, quella che l'ha fatta diventare a place to be per il New York Times. Ma ora, privata delle sue abitudini, la città cerca una diversa dimensione anche per questo segmento importante della sua economia. Si sono moltiplicati questi incontri online, webinar, sono esplose le dirette su Instagram, quindi non è mancata la componente di inventiva. Però di sicuro la frenesia a cui siamo abituati è decisamente ridotta e le pubbliche relazioni in automatico ne stanno risentendo. Lucia San Siro, di quella sera, che c'è di strano, siamo stati tutti là. Ricordi il gioco dentro la nebbia? Tu ti nascondi e se ti trovo ti amo là. Della capacità della sua Milano di andare contro le avversità non ha dubbi Roberto Vecchioni, il professore della musica italiana che non ha mai smesso di guardare con occhi innamorati, ammette, la sua città, anche quando spente le luci a San Siro per strada si sono tornati a sentire solo i versi degli uccelli oltre alle sirene delle ambulanze. La sento come una bella addormentata, ecco, la sua bellezza è quella e prima o poi si sveglierà. Il dramma di Milano è che alcune città italiane sono state colpite al braccio, al piede, sfiorate alla testa. Milano è stata colpita al cuore, è rimasta tra la vita e la morte. Per quanto riguarda economia, lavoro, arte, pensiero, quando si ferma il cuore si ferma la circolazione. Nessuna città, nessun paese, nessuna regione d'Italia potrà sopravvivere se morirà Milano. Questa socialità anche così promiscua e così capace di accogliere chiunque negli stessi bar, esatto, che è la forza un po' di Milano, adesso è un po' sospesa. Morto per morto, vivo per vivo, io devo andare avanti. E allora, io secondo me, a un certo punto i milanesi affronteranno qualche rischio, non hanno altra possibilità. Cioè metteranno sulla bilancia la possibilità di una malattia e dall'altra la fine assoluta del loro lavoro. Ci si confronterà, si parlerà, sempre a distanza dovuta, ma ci sarà sicuramente una riunione sociale piuttosto intensa. Quindi lei dice ricomincerà in forme diverse, ma dovrà ricominciare tutta questa vita, diciamo, professionale e sociale che è la cifra di Milano. Non può mancare, come se praticamente uno si svegliasse a Genova e non trovasse più il mare. Il mare per Milano è il suo lavoro, è la sua attività ergonomica, e la sua capacità di confronti, o come perdere tutte le bellezze artistiche di Roma. Roma si sveglia all'improvviso, non ha più chiese, non ha più la ricchezza splendida di Milano, è la capacità attiva delle persone, la forza attiva delle persone, e quella non va perduta. Sapessi come stai. senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente, fra la gente, tanta gente. Se il primo sindaco del dopoguerra, Antonio Greppi, concentrava in fatica, responsabilità e cuore i valori della città da reinventare, ora la parola d'ordine è innanzitutto distanziamento e trasformazione di spazi e ritmi, tutte sollecitazioni per urbanisti e creativi che da sempre si ritrovano nella capitale del design. Riflette Francesco Billari, docente di demografia all'Università Bocconi. Quello che deve fare evidentemente anche una città come Milano, che di spazio non ne ha tantissimo, è cercare di guadagnare più spazio possibile per ritornare a una socialità fisica mantenendo le distanze. La vita dei quartieri in alcuni casi non è stata del tutto fermata durante questo periodo. Ci sono stati dei caseggiati dove si è sviluppata una nuova socialità in cui i vicini hanno scoperto il valore del vicinato senza avere contatti fisici. Meglio farlo a livello di quartiere, perché ovviamente vogliamo ridurre il più possibile gli spostamenti all'interno delle grandi città. Sicuramente possiamo usare i parchi in modo importante. Abbiamo una fiera in città che è stata anche simbolo della lotta all'epidemia, che potrebbe essere magari utilizzata per una socialità protetta. Amo Milano perché quando il sole sorge nessuno se ne accorge. Amo Milano perché non si nota, per l'Europa Italia, per l'Italia Europa. Amo Milano perché è un giardino degli Emirati e siamo tutti immigrati. Amo Milano perché ci trovi tutti i colori, gli esseri umani, i lavori. Ora che lentamente le varie attività riprendono, Milano ricomincia ad attrarre migliaia di persone, soprattutto dall'Interland. Ed è qui, nelle strade, come sui mezzi pubblici, che si gioca la sfida sanitaria più complessa. Si combatte anche all'insegna di una mobilità sempre più sostenibile. Di solito a quest'ora, quando andiamo noi sui cantieri, così è abbastanza tranquillo. Però se adesso gli uffici non iniziano perché lavorano da casa, così da remoto, qualche cosa si risolverà. Già nelle settimane scorse che ho avuto modo di comunque di testare i mezzi pubblici e tutto, devo dire che ci siamo organizzati bene. Io arrivo da Paderno d'Adda e ho preso un treno alle 6:22 e ho viaggiato bene. Sono spiaggia cubana, sarei più felice, un po' meno insensibile. Dove il fine settimana e la lontananza diventa abitudine. Cancellare il tempo non basterà, se confondi l'aspirina con la felicità, questa spiaggia sarà la mia medicina. Continuo a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano, sei un bellissimo deserto, rompi solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. La battaglia di Milano è stata quella che da subito ha preoccupato di più sul fronte dell'epidemia. La metropoli, con i suoi 3 milioni di abitanti, non poteva essere travolta dal contagio. Milano, motore economico del paese, non poteva soccombere. Ora, nella fase 2, è chiamata a rafforzare i suoi argini per convivere con il virus. E lo fa con un piano affidato all'Agenzia di Tutela della Salute, guidata dal direttore sanitario Vittorio De Micheli. Per fortuna la dinamica dell'epidemia ha fermato il grosso del contagio alle porte di Milano, questa è la notizia più importante. Adesso è probabile, visto il numero di casi che ancora c'è, che una parte di popolazione infettata possa portare il contagio fuori da queste mura in cui è stato confinato, quindi c'è ancora un po' di preoccupazione. Strategia che adesso si sta mettendo in atto è una strategia di potenziamento estremo della sorveglianza, in modo da rendersi conto tempestivamente dei cambiamenti di incidenza e speriamo al massimo di poter intervenire con delle interruzioni limitate, fare delle zone rosse e non essere costretti a fare dei lockdown. Continuo a fissare il mio riflesso con lo sguardo di un samurai. Sentirsi uno schifo non ha senso, se a pagare sono sempre i tuoi. Milano, sei un bellissimo deserto, dammi solo un po' di good vibes. Solo good vibes, solo good vibes. Le prime sentinelle restano i medici di famiglia, espressione di quella sanità sul territorio al centro di tante polemiche per i tagli e per un'organizzazione poggiata molto sulle realtà private, come i laboratori a cui ora è stato concesso di effettuare test sierologici. Saranno in tanti a farli, nella metropoli dove ogni quartiere è diventata un'area a sé. Anche per tasso di contagio più basso all'interno della cerchia dei Navigli, secondo uno studio effettuato in base al CAP dei contagiati, più alto nelle periferie alveari, da dove in tanti non hanno mai smesso di spostarsi. E questo aumenta la preoccupazione per la sorveglianza sanitaria, nonostante l'ultima delibera, conferma Alessandro Politi, presidente provinciale milanese della Società Italiana di Medicina Generale. Sicuramente questa delibera andava scritta molto tempo fa, al di là del fatto che non ci fosse all'epoca il test sierologico, ma poter fare i tamponi diagnostici sui nuovi casi sospetti e sui contatti stretti del caso accertato sarebbe stato fondamentale per limitare il contagio. Meglio sarebbe stato farla almeno un mese fa. Milano mio, portami via. In un'aria di primavera, all'improvviso più profumata, Milano, ferita ma riparte. E lo fa col suo motto di sempre, con quelle parole attribuite ad Amatore Scesa, uno dei patrioti delle cinque giornate, come ricorda Roberto Vecchioni, divenute la sua regola. Tirem innanz. Questo ce lo stanno portando in patibolo, lo stanno passare davanti alla moglie e al figlio, e Amatore Scesa risponde Tirem innanz. Andiamo avanti, è il motto preciso di Milano. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.